Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Eccoci pronti per iniziare una nuova giornata. A che punto siete? Avete fatto doccia, colazione? Vi state preparando la schiscetta? State andando al lavoro oppure siete tra coloro che lavorano ancora a casa? Ma che cosa starà preparando il nostro ospite di oggi, il professor Michele Scognamiglio, specialista in scienze dell'alimentazione all'Università Campana Vanvitelli di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti e buongiorno a te Nicoletta, e grazie sempre per il gradito invito. Professore, lei che sta facendo? Non per farmi i fatti suoi, ma io entro nelle case degli italiani alle 6:15, mi sento automaticamente in confidenza perché quasi ci incontriamo in pigiama. Lei si sta preparando qualcosa? Mangerà a casa? Si porta qualcosa al lavoro? Allora, io mangerò a casa quando rientrerò, e proprio in questo momento stavo preparando una pasta fredda, la condirò con tutta una serie di vegetali, di pomodoro, di carote, perché in questo modo, diciamo, cerco di incontrare sia il gusto sia le esigenze nutrizionali di questo piatto. Professore, noi siamo fortunatissimi perché con un piatto di pasta, anche un semplice piatto di pasta al pomodoro, aggiungiamo anche due foglie di basilico, un filo generoso di olio extravergine d'oliva, una spolverata di parmigiano, abbiamo tutto quello che ci serve per stare bene. Ma, professore, come lei ben racconta nel suo libro E ora pasta, che poi ha tra l'altro un sottotitolo molto interessante, ma quello deve dire lei, se riusciamo a prepararla bene ci fa anche ancora meglio, nel senso che la pasta è buona, ma se noi adottiamo alcune attenzioni, alcune accortezze, rende anche di più. Sono perfettamente d'accordo, perché diciamo uno dei luoghi comuni da sfatare è quando si adotta un regime dietoterapico, una scorciatoia semplice ma non corretta è quella sempre di rimuovere il gruppo dei cereali in virtù del loro potere calorico. Ma in realtà, diciamo, questo non è del tutto vero, perché io ricordo che 100 grammi di cereali, per esempio, apportano mediamente sulle 360 calorie, ma rimanendo al caso della pasta, 100 grammi di pasta cotta corrispondono a 50 grammi di pasta cruda. E poiché l'acqua è un componente acalorico, io semmai volessi essere così attento al calcolo delle calorie, dovrei rapportarmi al peso della pasta cruda. Altro aspetto importante, prima parlavamo di paste fredde, di cereali freddi, ma lo stesso può valere anche per tutti gli alimenti amidacei, per esempio per le patate, ok? Quando io ho dei composti amidacei, l'amido, per effetto della cottura e della idratazione, va incontro a tutta una serie di fenomeni, il più importante dei quali è la gelatinizzazione dell'amido, cioè l'amido passa da una struttura cristallina, solida, ok, che ha nell'amido non cotto, nell'alimento non cotto, ad una forma simile a un gel. Ora, io posso, questo è importante per la digeribilità, perché una struttura rigida, compatta, un bel malloppo da digerire. Sarebbe difficilmente attaccabile da queste forbicine che sono gli enzimi, che sono gli amilasi, che scompongono l'amido in glucosio. Allora, diciamo, il miracolo che succede e che ci viene incontro è che quando io cuocio un alimento amidaceo e poi lo raffreddo, una quota parte di quell'amido che era gelatinizzato ritorna nella conformazione che aveva nella forma natia prima della cottura, e quindi non è un amido prontamente disponibile, quindi assume più le caratteristiche di una fibra, assume più le caratteristiche di un prebiotico. Quindi, diciamo, questo, e io invito tutti i nostri amici che ci ascoltano a sfruttare soprattutto in questo periodo la possibilità di consumare per esempio dei cereali freddi. Ma vedi Nicoletta, la saggezza popolare, che è sempre maestra di vita, no? I nostri nonni dicevano che il pane raffermo è più buono. Probabilmente non è più buono, ma ci fa più bene, perché anche quando il pane rafferma va incontro a questo processo che abbiamo detto prima, quello della retrogradazione, cioè l'amido da una forma gelatinizzata, prontamente digeribile, prontamente disponibile, ritorna in parte in una conformazione che aveva prima della cottura. E quindi non tutto l'apporto calorico poi si traduce effettivamente in calorie che noi assorbiamo, assimiliamo. Questo, diciamo, è un concetto molto importante. Assolutamente, prof. Quindi pasta fredda, ma cereali freddi. Questo è primi caldi, primi freddi, verrebbe da dire. E quindi sfruttiamo anche questa che lei ha definito quasi una sorta di magia. Cuociamo la nostra pasta, la cuociamo al dente e poi la raffreddiamo sotto l'acqua corrente. Diciamo, avere sempre un cereale resistente al morso, perché poi la cottura al dente è fondamentalmente questo, offrire una certa resistenza al morso, significa in qualche modo spendere un po' più di energie per cercare di destrutturare, di depolimerizzare quell'amido. Quindi diciamo mettiamo un po' al lavoro. Certo, enzimi, andiamo di mandibolina. Senta, professore, il sottotitolo del suo libro? Allora, il sottotitolo fa riferimento ad un detto popolare partenopeo molto diffuso che è «Ci volessero i paccheri». Il caso vuole che il pacchero è uno dei formati di pasta più utilizzati nel mondo intero e quindi, diciamo, a fronte delle stupidaggini che vengono dette in ambito alimentare riferendosi ai cereali, alla pasta, al pane in particolare, avevo pensato di dargli proprio questo titolo originario attribuendo un ruolo salvifico al pacchero e alla pasta. No, ci vorrebbero i paccheri proprio per, a fronte delle stupidaggini che a volte noi sentiamo. E poi, diciamo, abbiamo deciso con l'editore di limitarlo come sottotitolo perché forse non tutti avevano la possibilità di attingere a questo lessico, diciamo, di tipo... E poi bisogna anche pronunciarlo, no? Nel modo corretto. Però il messaggio l'abbiamo ricevuto... Se lei dovesse dare delle indicazioni, formati corti e formati lunghi, che caratteristiche hanno anche per una persona che vuole stare attento un po' a quello che mette in tavola, anche un po' alla linea, soprattutto si sta avvicinando un po' alla prova costume, ha un senso differenziare il formato? Può avere un senso, per esempio dicevamo prima nelle paste estruse c'è un 20% di calorie in meno proprio perché si cerca di limitare quel processo che descrivevamo prima di gelificazione dell'amido, però Nicoletti io farei molta più attenzione all'abbinamento. Ai matrimoni perfetti, lei ne parla, matrimonio perfetto, io sono andata semplice, pomodoro, filo d'olio, due fogliette di basilico e anche la pasta fredda più, no, più facile da preparare, ma lei suggerisce abbinamenti molto nutrienti, sostanziosi e gustosi, proprio la coppia ideale. Qual è? La coppia ideale ce l'hanno insegnata i nostri nonni, perché ricorda Nicoletta che i più grandi esperti di nutraceutica è stata sempre i nostri nonni, è stata la saggezza popolare che pur senza studiare biochimica, senza studiare la composizione degli alimenti, ma guarda caso riuscivano sempre ad azzeccarci perché si proponevano sempre piatti gustosi, nutrienti e soprattutto salutari. Ecco, per esempio nel caso dei cereali, uno degli abbinamenti più straordinari, dei matrimoni più riusciti dal punto di vista nutrizionale, è quando i cereali vengono uniti con i legumi, per esempio. Eccolo lì, perché quello che manca uno lo dà l'altro, un monopiatto straordinario. Ma ad esempio? Per esempio una pasta e ceci, una pasta e fagioli, una pasta e piselli, una pasta e fave, perché vedi, succede una cosa molto strana, diciamo è vero che i cereali hanno un contenuto piuttosto modesto di proteine che varia dal 7% nel caso del riso fino a un 12-13% nel caso del grano, ma in realtà al di là della quantità delle proteine a noi interessa la qualità delle proteine, ovvero il loro valore biologico. Ora nel caso dei cereali, diciamo, a fronte di questa scarsità proteica, che non è detto che sia uno svantaggio, c'è un problemino però da risolvere perché i cereali mancano di uno degli 8 aminoacidi essenziali, cioè dei quali non possiamo fare a meno, che la lisina, e la mettono i legumi. La mettono i legumi, però vai, fantastico. Vada bene che i cereali però sono particolarmente ricchi di altri aminoacidi straordinari, essenziali, che sono la metionina, che sono il triptofano, che è il precursore della serotonina, della melatonina, il precursore poi dell'ormone del benessere. E guarda caso, questi due aminoacidi invece sono carenti nei legumi. Quindi in una forma vicendevole, in una forma vicariante, proprio amorevole, quello che manca all'uno lo mette a disposizione all'altro. E quindi il mix cereali, legumi ti permette di avere proteine di valore biologico superiore sicuramente alla carne animale, ma senza poter avere lo spauracchio del colesterolo, certo, di grassi saturi. Quindi prof, mi sa, lei ha detto mi preparo una pasta fredda, metto verdure, lei aggiungerà quindi anche legumi alla sua pasta fredda, una bella insalatona di pasta. Bravo, bravo. Con una dose generosa di olio extravergine, ma semmai poi quando rientrerò anche un buon calice di vino, perché essendo anche un appassionato, un seguace di Bacco, quindi ho completato la triade alimentare mediterranea per eccellenza, che trova i suoi fondamenti proprio nei cereali, nell'olivo e nella vite. Professore, grazie per essere stato con noi. Già di prima mattina pensiamo già a quello che mangeremo a pranzo, però è bello anche così. Buona giornata, buona giornata professore, torni presto a trovarci. Buona giornata a voi, io vi aspetto come ogni giorno dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Non mancate, buona giornata, buona schiscetta, buon pranzo.